In quel tempo stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: Donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: Ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Oggi celebriamo la festa di Maria Addolorata e non è un caso che la celebriamo oggi perché Maria è associata alla sofferenza di Gesù, al dono che Gesù ha fatto della sua vita e della sua morte. Anche Maria è associata a questa sofferenza di Gesù. Ieri abbiamo celebrato l'esaltazione della croce, l'esaltazione cioè dell'amore di Dio per noi. E oggi in questa festività siamo chiamati a meditare su questo brano. E oggi la cosa che mi ha colpito di più, devo dirvi, l'ho visto in un'altra prospettiva, cioè oggi mi sono rimasta molto colpita dal fatto che Gesù stava sulla croce e Maria e Giovanni stavano ai piedi della croce. Stando sulla croce aveva dei dolori incredibili, era in preda a una sofferenza fisica, psicologica, spirituale, morale. Immaginate che sofferenza, e lui non pensa a se stesso, non pensa a ricevere consolazione, ma che cosa fa? Pensa a Giovanni e pensa a Maria. Donna, ecco tuo figlio, e a Giovanni, ecco tua madre. Lui vuole sistemare in un certo senso sua madre e vuole sistemare Giovanni, vuole dare a Giovanni una mamma e a Maria un figlio che possa accudirla, che possa curarla. E a questo riguardo mi viene in mente l'insegnamento di San Paolo nella prima lettera a Timoteo, al capitolo 5, versetto 8, lui dice: Se qualcuno non ha cura dei suoi, soprattutto di quelli di casa, costui ha rinnegato la fede ed è peggiore di un infedele. La ripeto questa frase: se qualcuno non ha cura dei suoi, soprattutto di quelli di casa, costui ha rinnegato la fede ed è peggiore di un infedele. Ecco, queste frasi le vedo veramente rivolte a noi che tante volte ci curiamo di tante persone, ma magari non ci curiamo abbastanza di quelli di casa nostra. E oggi il proposito quindi potrebbe vertere proprio su questo, vedere un po', ma io mi curo di quelli di casa mia e chi sono quelli di casa mia? Soprattutto sono i genitori per i figli e i figli per i genitori. Allora, se sono genitore, mi chiedo come mi occupo dei miei figli, come li curo, do loro tutto quello di cui necessitano, non solo dal punto di vista materiale, ma anche dal punto di vista proprio della presenza, dell'amore, della dedizione, dell'esempio, tante cose. E se sono figlio, mi curo dei miei genitori, ho la dedizione verso di loro, oppure preferisco che altri se ne curino, magari mi disinteresso di loro, nemmeno li chiamo, se hanno bisogno del mio aiuto preferisco metterli in una casa di cura. Ecco, facciamoci questa domanda e facciamoci ispirare da questo insegnamento di Gesù che San Paolo ha veramente assimilato e ha riprodotto con queste parole che vi ho appena letto, no? Se qualcuno ha cura, non ha cura di quelli di casa propria, costui è peggio di un infedele. Ecco, facciamo veramente il proposito di curarci delle persone che ci sono state affidate, ossia delle persone di casa nostra. Buona giornata.